Capitolo 43. Era da presumersi che il giorno dopo Mr. Crawford si fosse messo in viaggio per Londra, dato che non lo si vide più comparire in casa di Mr. Price. E di lì a due giorni Fanny ne ebbe conferma dalla seguente lettera di Mary, che aprì e lesse con la massima curiosità, connessa, è vero, a un altro motivo. «Devo confermarle, mia carissima Fanny, che Harry è stato a Portsmouth per vedere lei, che con lei ha fatto una prima deliziosa passeggiata ai cantieri sabato scorso e una seconda, ancora più dolce da commentare, il giorno seguente sui bastioni. L'aria balsamica, il mare tutto scintillio, il suo soave aspetto e la sua conversazione composero tutti insieme la più deliziosa armonia, tale da destare statiche sensazioni a solo ricordarle. Questo, per quanto posso rammentarmi, deve essere la sostanza di quanto sono incaricata di riferire. Mi chiede di scriverle, ma non so quant'altro le debba essere comunicato, eccetto la summenzionata visita a Portsmouth e le due suddette passeggiate e l'essere stato presentato alla sua famiglia, specialmente a una sua graziosa sorella, una simpatica ragazza di 15 anni che faceva parte del gruppo sui bastioni, e ricevendo, a quanto suppongo, la prima lezione sull'amore avuta in vita sua. Non ho tempo per scrivere molto, ma sarebbe fuori posto se ne avessi, perché questa deve essere una lettera puramente d'affari, scritta allo scopo di trasmettere necessarie informazioni che non possono subire ritardo senza rischiare un qualche inconveniente. Mia cara, cara Fanny, ah, se l'avessi qui con me, come le parlerei! Mi dovrebbe ascoltare fino a stancarsene e darmi consigli fino a stancarsene ancora di più. Ma è impossibile mettere anche solo una centesima parte di tutto quanto sento sulla carta. Così me ne asterrò totalmente e la lascerò supporre a suo piacimento. Non ho notizie da darle su quanto riguarda la politica. Lei è naturalmente informata, in quanto a me sarei inqualificabile se l'affliggessi coi nomi delle persone e col programma dei trattenimenti che mi prendono tutto il tempo. Avrei dovuto mandarle il resoconto del primo ricevimento dato da sua cugina, ma al momento sono stata pigra e ormai è cosa passata. Basti dire che tutto è andato esattamente come doveva andare, in uno stile che a chiunque le sia vicino deve aver fatto piacere registrare e che il suo abito e i suoi modi le hanno procurato il massimo credito. La mia amica Mrs. Fraser va matta per quella casa e certo l'averla non mi porterebbe alla disperazione. Dopo Pasqua sarò ospite di Lady Stornoway. Sembra molto su di morale e veramente felice. Immagino che in famiglia Lord S sia simpatico e pieno di buon umore. E ora non lo trovo così brutto come mi sembrava, o perlomeno se ne vedono d'aspetto molto peggiore. Certo non figurerebbe a fianco di suo cugino Edmund. Di quest'ultimo eroe di cui faccio il nome cosa dovrei dire? Se evitassi del tutto di menzionarlo, scrivendo, sarebbe cosa sospetta. Dirò dunque che l'abbiamo visto due o tre volte e che le mie amiche qui sono tutte colpite dal suo aspetto di perfetto gentiluomo. Mrs. Fraser, che non è cattiva giudice in materia, dichiara di conoscere solamente tre uomini in città che abbiano altrettanta bella presenza, statura e modo di fare. E io devo confessare che quando ha pranzato qui l'altro giorno non vi era nessuno che reggesse a suo confronto ed eravamo un gruppo di 16. Fortunatamente oggigiorno gli abiti non portano segni rivelatori, ma, con affetto. Ah, avevo quasi dimenticato. È stata colpa di Edmund e mi occupa la mente più di quanto sia conveniente per me. Una cosa del tutto pratica che ho da dire da parte di Harry e mia, intendo il progetto di riaccompagnarla nel Northamptonshire, mia cara piccola amica, non rimanga a Portsmouth tanto da perdere il suo aspetto grazioso. Quelle terribili brezze marine sono la rovina della bellezza e della salute. La mia povera zia ne soffriva sempre, anche a 10 miglia di distanza dal mare, cosa che l'ammiraglio naturalmente rifiutò sempre di ammettere, ma io so che era così. Sono a disposizione sua e di Harry, mi basta un'ora di preavviso. Mi piacerebbe dar seguito al progetto e faremo una piccola deviazione per farle conoscere Everingham lungo la via. E forse non le dispiacerebbe passare da Londra e vedere l'interno della chiesa di San Giorgio in Hanover Square. Tenga solo lontano suo cugino Edmund da me in una simile occasione, non vorrei essere tentata. Ah, che lunga lettera! Ancora una parola. Ho sentito che Harry ha intenzione di tornare nel Norfolk per sbrigare una faccenda che lei approva, ma questo non può assolutamente essergli permesso prima della metà della settimana prossima. Intendo dire che qui non possiamo fare a meno di lui fino dopo il 14 prossimo, visto che quella sera diamo un ricevimento. Quanto valga un uomo come Harry in simile occasione è cosa che lei non può immaginare. Perciò deve credermi sulla parola, è inestimabile. Incontrerai Rushworth, cosa che, lo confesso, non mi dispiace, essendo alquanto incuriosita in proposito. E lo è anche lui, benché non lo voglia ammettere. Era una lettera da scorrere avidamente e da rileggere con calma per ricavarne abbondante materia di riflessione, per poi trovare che lasciava ogni cosa in un'incertezza più grande di prima. L'unica informazione sicura che se ne poteva ricavare era la prova che nulla di decisivo era ancora avvenuto. Edmund non aveva ancora parlato. Cosa sentisse realmente Miss Crawford, in qual modo intendesse reagire, o se poteva darsi il caso che agisse senza aver formulato un'intenzione precisa, o addirittura, in senso contrario ad essa, se l'importanza di Edmund per lei era ancora quale era stata prima dell'ultima separazione, se nel caso fosse diminuita, potesse diminuire ancora di più o al contrario tornare a essere quella di prima, erano spunto per congetture senza fine, sulle quali meditare quel giorno e durante molti giorni ancora, senza giungere a nessuna conclusione. L'idea che le tornava più spesso in mente era che Miss Crawford, resa più fredda ed esitante da un primo contatto con le note abitudini londinesi, avrebbe finito col sentirsi troppo legata a lui per lasciarlo. Sì, si sarebbe sforzata di far prevalere l'ambizione sul cuore. Avrebbe esitato, lo avrebbe punzecchiato, avrebbe posto delle condizioni e preteso molto, moltissimo, ma alla fine avrebbe accettato. Questa era la conclusione alla quale giungeva più frequentemente Fanny. Una casa in città. Questo pensava sarebbe stato impossibile, eppure chi poteva dire quel che Miss Crawford sarebbe stata capace di esigere? Le prospettive di felicità per suo cugino peggioravano sempre più. Una donna che poteva parlare di lui commentandone solamente l'aspetto fisico. Che amore meschino. Sentirsi incoraggiata dalle lodi di una Mrs. Fraser, lei che lo aveva frequentato intimamente per la metà di un anno. Fanny si vergognava per lei. Quelle parti della lettera che si riferivano solamente a Mr. Crawford e a lei stessa, in confronto la toccarono solo superficialmente. Che Mr. Crawford andasse nel Norfolk prima o dopo il 14 certamente non la riguardava, anche se, tutto considerato, aveva pensato che vi sarebbe andato senza indugio. Che Miss Crawford tentasse di combinare un incontro fra lui e Mrs. Rushworth era consono al suo peggior modo di agire. Indicava pesantemente una totale assenza di gentilezza e di buonsenso. Ma sperava che lui non si sarebbe lasciato invogliare da una così meschina curiosità. Egli non accettava simili suggerimenti e sua sorella avrebbe dovuto fargli credito di sentimenti migliori dei propri. Dopo questa lettera, si sentì ancora più impaziente di quanto fosse stata prima di riceverne un'altra da Londra e per alcuni giorni fu così turbata da quella che aveva in mano, pensando a ciò che poteva essere avvenuto e a ciò che poteva avvenire, che le sue solite letture e conversazioni con Susan furono quasi interrotte. Non riusciva a fissare la propria attenzione come avrebbe voluto. Se Mr. Crawford si era ricordato dell'ambasciata per Edmund, pensava che era molto probabile, del tutto probabile, che egli si decidesse a scriverle. Comunque andassero le cose, sarebbe stato consono all'affettuosa gentilezza con cui era solito comportarsi nei suoi riguardi, e finché non ebbe rimorso quella quasi certezza, finché ella non si logorò a poco per l'assenza di lettere durante altri 3 o 4 giorni, visse in uno stato di estrema agitazione ed ansietà. Alla fine subentrò una specie di calma. Anche quell'ansia doveva essere dominata. Non doveva permettere che la logorasse interiormente e la rendesse inutile. Il tempo che passava fece qualcosa in proposito, i suoi sforzi personali qualcosa di più, e tornò a dedicarsi a Susan e con l'interesse di prima. Susan le si stava affezionando moltissimo e pur senza provare quel precoce diletto nei libri che era stato così vivo in Fanny, pur avendo un'indole assai meno incline alle attività sedentarie o alla ricerca della cultura per la cultura, aveva un così forte desiderio di non apparire ignorante, e insieme un'intelligenza così lucida e aperta da divenire una grata, attentissima, profittevole discepola. Fanny era il suo oracolo. Le spiegazioni e le osservazioni di Fanny costituivano una importantissima aggiunta ad ogni saggio che Susan scriveva e ad ogni capitolo di storia che studiava. Così Quello che Fanny le diceva sui tempi passati si fissava nella sua mente più delle pagine lette sul testo di Goldsmith e faceva alla sorella il complimento di preferire il suo stile a quello di qualsiasi scrittore pubblicato e stampato. Le mancava l'abitudine alla lettura che si apprende da piccini, naturalmente le loro conversazioni non vertevano sempre su argomenti all'altezza di quelli storici o etici. C'era tempo anche per altri interessi. E fra i temi di minor levatura intellettuale nessuno tornava così frequentemente o era così a lungo trattato fra loro come Mansfield Park, e le persone che l'abitavano, i modi, gli svaghi, gli usi di Mansfield Park. Susan, che aveva un gusto naturale per le cose raffinate e bene ordinate, era ansiosa di udire, e Fanny non poteva non indugiare su un argomento così caro al suo cuore. Sperava di non sbagliare, anche se dopo un certo tempo la grande ammirazione di Susan per ogni cosa detta o fatta nella casa dello zio e il suo ardente desiderio di recarsi nel Northamptonshire quasi la indussero a biasimarsi per aver suscitato desideri che non potevano essere gratificati. La povera Susan era di poco più adatta della sorella maggiore alla vita quale si svolgeva nella casa paterna. E allorché Fanny fu in grado di capirlo pienamente, cominciò a sentire che quando fosse giunto il momento della sua liberazione da Portsmouth, il fatto di dover abbandonare Susan avrebbe grandemente diminuito la sua felicità. Che una ragazza così atta a venire modellata, secondo tutto quanto vi era di buono, dovesse essere lasciata in mani tanto inadeguate, la addolorava ogni giorno di più. Se lei avesse mai avuto una casa sua dove invitarla, che benedizione sarebbe stata. E se le fosse stato possibile ricambiare il sentimento di Mr. Crawford, il suo più che probabile consenso a tale soluzione avrebbe contribuito nel migliore dei modi al suo proprio benessere. Pensava che egli aveva innegabilmente un buon carattere e poteva immaginarlo pronto a sottoscrivere con cordiale sollecitudine un progetto di quel genere. Capitolo 44. 7 settimane dei 2 mesi previsti per la visita erano quasi completamente passate, quando la lettera così lungamente attesa, la lettera di Edmund, fu posta fra le mani di Fanny. Mentre l'apriva, vedendone la lunghezza, si preparò a trovarvi una minuziosa descrizione di felicità e una profusione di amorosi slanci in lode della fortunata creatura che ormai era padrona del di lui destino. Prese a leggere. Mansfield Park. Mia cara Fanny, scusami se non ho scritto prima. Crawford mi disse che desideravi ricevere mie notizie, ma mi è stato impossibile scrivere da Londra e mi sono persuaso che tu avresti capito il mio silenzio. Se avessi potuto mandarti poche righe felici, non ti sarebbero mancate, ma non se ne è mai dato il caso. Sono ritornato a Mansfield con minori certezze di quando l'avevo lasciato. Le mie speranze sono molto più deboli. Forse tu sei già al corrente della situazione. Affezionata come ti è, Miss Crawford, è naturalissimo che ti dica abbastanza dei suoi sentimenti da metterti in grado di indovinare abbastanza bene i miei. Non intendo tuttavia astenermi dal fartene parte personalmente. La fiducia che entrambi abbiamo in te non deve creare motivi di contrasto. Non ti faccio domande. Vi è qualcosa di consolante nel pensiero che abbiamo la stessa amica e che nonostante una qualche malaugurata divergenza di opinione fra noi, siamo uniti nell'affetto per te. Per ogni modo, mi farà conforto dirti lo stato attuale delle cose e quali sono i miei progetti del momento, ammesso che per ora io faccia progetti. Sono qui già da sabato. Mi sono trattenuto a Londra 3 settimane e l'ho vista, secondo il metro di Londra, molto spesso. Ho ricevuto tutte le attenzioni che da parte dei Fraser potevo ragionevolmente aspettarmi. Devo ammettere che da parte mia non era stato ragionevole sperare in un rapporto come quello avuto con lei a Mansfield. Tuttavia, si è trattato dei suoi modi più che di una scarsa frequenza negli incontri. Se fosse stata diversa le volte in cui l'ho vista, non avrei avuto di che lamentarmi, ma fin dalla primissima volta l'ho trovata cambiata. Il suo fare, la prima volta che mi ha ricevuto, è stato così diverso da quello che avevo sperato che quasi mi ero deciso a lasciare Londra immediatamente. Non occorre scendere in particolari. Tu conosci il lato debole del suo carattere e puoi immaginare i sentimenti e le espressioni che mi hanno torturato. Era molto su di giri e circondata da coloro che davano tutto il sostegno del loro errato giudizio alle convinzioni del suo spirito troppo vivace. Mrs. Fraser non mi piace, è una donna vana dal cuore frigido che si è sposata esclusivamente per convenienza e che, benché evidentemente infelice nel matrimonio, non incolpa della sua delusione i propri errori di giudizio o le pecche della sua indole, non il divario di età fra lei e il marito, ma l'essersi trovata, alla resa dei conti, meno ricca di molti suoi conoscenti, specialmente di sua sorella, Lady Stornoway. È la determinata paladina di tutto quanto è mercenario e ambizioso, purché sia ambizioso e mercenario a sufficienza. Considero l'intimità della nostra amica con quelle due sorelle come la peggior disgrazia sua e mia. L'hanno sviata per anni. Se la si potesse staccare da loro, e a volte non ne dispero perché a giudicare dall'affetto reciproco quello che esse nutrono per lei mi sembra più forte. Le vogliono molto bene, ma sono sicuro che lei non vuole bene a loro come ne vuole a te. Quando penso al suo grande e sincero affetto per te e a tutta la sua retta e giudiziosa condotta in quanto sorella, mi sembra una creatura molto diversa, capace di ogni nobile gesto, e sono pronto a biasimarmi per la mia troppo severa interpretazione dei suoi modi scherzosi. Non posso rinunciare a lei, Fanny. È l'unica donna al mondo della quale io possa mai pensare di fare mia moglie. Se non credessi che ha un certo sentimento per me, naturalmente non direi questo, ma credo che lo abbia. Sono convinto che non è priva di una decisa preferenza nei miei riguardi. Non sono geloso di nessuno. È l'influenza dell'ambiente mondano nel suo complesso di cui sono geloso. Sono le abitudini alla grande ricchezza che temo. Le sue vedute in proposito non sono più ambiziose di quanto le sue personali condizioni finanziarie possono permetterle, ma vanno oltre a quanto le nostre rendite unite possano consentire. Vi è conforto, tuttavia, perfino in questo. Potrei sopportare meglio di perderla perché non sono ricco abbastanza che non a causa della mia professione. Il primo motivo proverebbe solo che il suo amore non è tanto forte da farle accettare sacrifici, che di fatto sono poco giustificato a richiederle, e se sarò rifiutato, questo sarà, penso, l'onesto motivo. I suoi preconcetti circa la mia carriera, confido, non sono così forti come erano una volta. Eccoti i miei pensieri, mia cara Fanny. Esattamente come mi vengono in mente l'uno dopo l'altro. Forse a volte sono contraddittori, ma non per questo ti daranno un quadro meno esatto del mio stato mentale. E ora, dopo aver cominciato, è un piacere continuare a dirti tutto quello che sento. Non posso rinunciare a lei, imparentati già come siamo tu ed io, e lo spero come lo saremo ancora di più. Rinunciare a Mary Crawford equivarrebbe per me a rinunciare alla compagnia delle persone che mi sono più care, esiliarmi dagli amici ai quali, se mi toccasse qualsiasi altra disgrazia, mi rivolgerei per conforto. Nella perdita di Mary devo includere la perdita di Crawford e di Fanny. Se la cosa fosse nettamente decisa, se si trattasse di un vero e proprio rifiuto, saprei, spero, come sopportarlo e come tentare di indebolire la presa che lei ha sul mio cuore di qui ad alcuni anni, ma sto divagando. Se verrò respinto, lo dovrò sopportare, e finché non lo sarò, non cesserò mai di conquistarla. Ecco la verità. L'unico problema è come. Quali possono essere i mezzi più atti a conseguire lo scopo? A volte penso di tornare a Londra dopo Pasqua e a volte di non far nulla finché lei non tornerà a Mansfield. Già ora parla con piacere di quando sarà a Mansfield in giugno. Ma giugno è molto lontano e credo che le scriverò. Ho quasi deciso di spiegarmi per lettera. Raggiungere una certezza per tempo è un obiettivo essenziale. La mia presente condizione è tremendamente complessa. Considerando bene la cosa, penso che una lettera sarà decisamente il miglior modo di giungere a una spiegazione. Sarò in condizione di scrivere molte cose che non saprei dire a voce. E così. Le darei il tempo di riflettere prima di decidere la sua risposta. Temo meno il risultato della riflessione che quello di un primo affrettato impulso. Penso che farò così. Il più grande pericolo per me sta nel fatto che chieda consiglio a Mrs. Fraser quando io, lontano, mi troverò nell'impossibilità di perorare la mia causa. Una lettera espone a tutti i pericoli della consultazione con altri, e quando alla mente. Manca anche solamente un poco per decidere. Un consigliere può in un momento poco felice indirizzarla a fare quanto potrà in seguito essere rimpianto. Bisogna che consideri meglio ogni cosa ancora per un po'. Questa lunga lettera, tutta dedicata alle mie personali preoccupazioni, Può mettere a dura prova anche l'amicizia di una Fanny. L'ultima volta che vidi Crawford fu al ricevimento di Mrs. Fraser. Sono sempre più soddisfatto di tutto quanto vedo e sento dire sul suo conto. In lui non vi è ombra di tentennamento. Sa perfettamente bene quello che vuole e agisce conformemente alla sua risoluzione. Qualità questa inestimabile. Non ho potuto vedere lui e la mia sorella maggiore nella stessa stanza senza ricordarmi quello che mi dicesti una volta e devo ammettere che non si incontrano da amici. Da parte di lei vi era una sostenuta freddezza, quasi non si parlarono. Lo vidi tirarsi indietro, sorpreso da tale atteggiamento, e mi rincrebbe che Mrs. Rushworth si risentisse per un qualsiasi immaginario affronto fatto a Miss Bertram. Senza dubbio, desideri conoscere la mia opinione sulla felicità della giovane Mrs. Rushworth. Non vi è nulla che la lasci supporre infelice. Spero che vadano avanti insieme abbastanza bene. Ho pranzato due volte a Wimpole Street e avrei potuto recarmici più spesso, ma è mortificante trovarsi con Rushworth in qualità di fratello. Giulia sembra godersi Londra al massimo grado. Io vi ho goduto pochi piaceri, ma ne trovo ancor meno qui. Non formiamo un gruppo animato, tu manchi moltissimo. A me manchi più di quanto possa esprimere. Mia madre ti manda tutto il suo affetto e spera di ricevere presto una tua lettera. Parla di te quasi ogni ora e mi rincresce di calcolare per quante settimane ancora dovrà essere priva di te. Mio padre ha intenzione di venirti a prendere di persona, ma non sarà che dopo Pasqua, quando i suoi affari lo chiameranno in città. Tu, spero, vivi lietamente a Portsmouth, ma questa tua visita non deve durare un anno. Voglio che tu torni per conoscere la tua opinione su Thornton Lacey. Non me la sento di apportarvi migliorie definitive finché non saprò se un giorno avrà una padrona. Penso che sicuramente le scriverò. I Grant hanno deciso di recarsi a Bath. Partiranno da Mansfield lunedì prossimo. Ne sono contento. Non sono abbastanza sereno per sentirmi adatto alla compagnia altrui. Tua zia sembra spiacente che una simile notizia da Mansfield ti sia impartita dalla mia penna invece che dalla sua. Il tuo per sempre, mia carissima Fanny.